ciò che odio, ciò che amo. Vediamo. Beh, per primo, amo la gente con cui giro, giuro che vi amo sicuro, che non vi scordo. Amami dal giorno che ho messo piede su sto mondo. Nel profondo, amo la mia donna, sia che litighiamo, sia che lo facciamo. Ti amo amore, te l'avevo mai detto? No vabbè, te lo dico adesso. Lo sai come bambina, sono un poco così, come si dice? Sono perso nei beat, amo sti cazzo di beat, perché sono un MC, amo chi vive di beat, come Simo e Free, sì che ho piedi incollati per terra. Per questo, sta vita di merda, l'unica merda di cui faccio è visto che sopravviviamo, viviamo per quello che abbiamo, è chiaro. Siamo ciò che possediamo, io li amo sti soldi, amo tutto ciò che comprano. Tu mica vuoi farmi credere, non ti piacciono io. Io imparerò con gli anni ad amarli i tuoi valori, finché non ho soldi, ho ben altri problemi. Amo amici veri, ho come un certo stesso senso, l'amicizia la sento sulla pelle come il vento. Ho il giusto feeling con dei tipi qua del posto, sai, lo riconosco, cambio il mio posto come nessun altro posto. Sei posto bene, trovi posto tra i miei effetti. Amo PH Writers, altri pochi per scelti. Amo fare concerti ed esibirmi dal vivo. E poi che altro? Amo stare in studio. Amo le feste di Stamina Malfe serve. Amo la merda che sta gente mi serve. Chi mi conosce lo sa che sono alla mia maniera, e che amo gente vera nella scena come Lela. Resto sempre, sempre solo io, in modo mio, solo io. Per le strade lo sanno chi sono, ciò che odio, ciò che amo. Io resto sempre, sempre solo io, in modo mio, solo io. Per le strade lo sanno chi sono, ciò che odio, ciò che amo. Ciò che odio, ne parliamo. Se ti odio non parliamo, è meglio che lo evitiamo. Scemo, sei tu che mi hai messo su un piedistallo. Ben adesso vuoi che scenda, ma se parti ci rimango. Odio chi si scorda il posto da dove viene, nel bene o nel male, vive nelle tue parole. Io rimasto fedele e non lo nascondo. Grazie miei, ho soddisfatto il mio bisogno. Tu che cazzo di bisogno c'hai? Tu migliori tuoi, quando ciò che vuoi in fondo ce l'hai. Questo è per voi che campate con soldi di vostro padre. Ma detto che disprezzate chi vuol far soldi a palate, è così che siete arcore, strozzate. Oh, mi sbaglio, ma come cazzo la vivi? Una vita in sto mondo, al codardo che si lamenta che sta scena fa schifo. Sai che ti dico amico? Fa schifo per forza. Finché c'è gente come te che vanta questa ignoranza, pensi che in fondo cambia? L'ignoranza è sorda, non ti sembra? Mi sembra che vi riempiate la bocca di merda, che orecchio per intendere mi intenda. Odio chi vuole oscurare il mio sole, sta roba risplende di amore per la mia gente. Non ti convince, no, vuoi me fuori dal gioco, ma i nuovi racci danno luce a sto globo. In ogni modo, si pensi di fermarci, perdete il vostro tempo. Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto. Io non tramonto tanto facilmente, cosa? In mente ste rime, nel cuore sempre Firenze. Chiaro? Sapevo da solo che non piace a nessuno. Se quel nessuno è il mondo, allora il mondo fanculo. So che mi odi se parlo, so che mi ami se parlo. Ne sono certo, alzi la mano che è pronto a negarlo.